L'oroscopo ormai è parte della nostra quotidianità come il caffè e la pasta asciutta. Non ci è rivista, quotidiano o TG che non ci propinino giornalmente le previsioni sul nostro domani, e non mancano neppure le riviste specializzate nel settore. A cosa è dovuta la notorietà dell'oroscopo al punto che vi sono almeno 300 siti italiani in internet? Per degli esseri quali noi siamo, fragili e pieni desideri di sicurezza del presente e del futuro, chi predice il futuro rappresenta l'unica persona che può dare una speranza. Nulla di strano, perciò, se coloro che predicono il futuro speculano sull'ingenuità di persone mentalmente povere e deboli, poiché credere che degli astri lontani anni luce da noi possano gettare un'influenza determinante sul nostro carattere e determinare il corso della nostra esistenza, è una fede paragonabile a quella di una tribù africana che crede nella divinità dei coccodrilli. Eppure tra le persone che consultano l'oroscopo ce ne sono di ogni tipo, le ragazzine, che lo consultano per capire come andrà a finire una loro storia d'amore, la persona di spettacolo, che desidera sapere in anticipo come andrà la serata, lo sportivo che chiede agli astri se sarà o no sotto una buona stella mentre disputerà la sua gara, il ragioniere che chiede lumi all'astrologo per sapere come comportarsi con il capo ufficio, la casalinga che cerca conforto e sapienza nelle indicazioni del suo segno zodiacale. Gli astrologi costituiscono certamente una delle più grandi truffe della società, truffa non solo di denaro, ma soprattutto nel campo morale e spirituale. Poiché noi esseri umani abbiamo un disperato bisogno di sicurezza e di conforto, se non soddisfiamo queste nostre necessità con dei mezzi leciti, per forza di cose li soddisfiamo con dei mezzi illeciti e non giusti. E, come per il mangiare, se non ingeriamo dei cibi sani e nutrienti, dato che non possiamo rimanere a digiuni, siamo costretti a ingerire elementi nocivi e dannosi per la nostra salute. Così, chi desidera sicurezza, pace, serenità ed eventualmente anche conoscere il futuro, se non si rivolge all'unica vera e sana fonte che è il Dio Trino dei cristiani, è costretto ad ascoltare fandonie e porre fede in ciò che fa parte della menzogna. Proprio perché l'oroscopo ha una forte seduzione, mi propongo di dimostrare che le predizioni e i consigli degli astrologi le possiamo trovare tutte nella parola di Dio, un libro che da millenni viene letto, creduto e praticato da milioni e milioni di persone. Ecco alcuni consigli degli indovini tratti da vari programmi televisivi. Un consiglio di un indovino era: applicatevi alla lettura e sarete preparati alla vita. Che una persona istruita sia preparata alla vita in maggior misura rispetto a un illetterato è vero, ma che qualsiasi lettura prepari alla vita non è vero. Se si leggono giornali pornografici o fumetti, questi non dicono nulla in merito al bene o al male che si compie. Invece, una sana lettura della parola di Dio è indispensabile per sapere come comportarsi correttamente. Così si è espresso l'Apostolo Paolo. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. 1 Timoteo 3.16. Gli indovini invitano le persone a tenersi occupati nella lettura, ma non aggiungono di leggere la parola di Dio che è in grado di rendere completo l'uomo che ama Dio per compiere ogni sorta di bene. L'oroscopo non è adatto per conoscere la volontà di Dio. Un altro consiglio dell'oroscopo era: sappiate guardare lontano. Questo invito non dice veramente nulla, dato che guardare lontano, cioè avere delle prospettive, non è sempre sinonimo di essere delle brave persone, perché anche coloro che svaligiano una banca, coloro che meditano degli attentati dinamitardi, guardano lontano ma per compiere del male. Se c'è, è una categoria di persone che guarda lontano senza attendere che lo dica l'oroscopo, sono proprio quelli che hanno posto fede in Gesù. Dei credenti dell'Antico Testamento viene detto quanto segue. Tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma, vedutele da lontano, essi ne furono persuasi, e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11.13. I credenti in Cristo credono alle promesse fatte da Dio, ed essendo persuasi vivono di conseguenza tenendo ogni giorno gli occhi fissi sui dei premi che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Sa guardare lontano e bene il cristiano che conosce le promesse di Dio, e questo ci dice che comunque noi uomini abbiamo l'inclinazione di avere delle mete e dei propositi a lungo termine, perciò chi non ha propositi buoni è obbligato ad avere dei propositi cattivi. L'oroscopo fa dunque leva su di una mancanza dell'uomo che non vuole compiere la volontà di Dio. Chi non ha fiducia di guardare lontano alle promesse di Dio, pone fede in ciò che non è vero, con una differenza. Che Dio non ha mai mentito, l'oroscopo invece sbaglia sempre. Infatti, anche se qualche predizione si avvera, è un caso. Un'altra promessa dell'oroscopo sentita per televisione era: lavorate con dedizione. Nel tempo i vostri sforzi saranno premiati. Mi chiedo cosa ci è di tanto speciale in questo oroscopo, dato che tutti sanno che ogni sforzo ha il suo risultato. L'Apostolo Paolo disse in merito: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Galati 6.9-10. Tutti sanno quanto Gesù Cristo abbia esortato coloro che avevano posto fede in Lui a compiere del bene, e prima di tutto nei confronti dei fratelli in fede. Perciò aspettare l'oroscopo per iniziare a compiere il bene, o compierlo in un dato giorno, è veramente assurdo. Compiere del bene deve essere un'abitudine e non l'obbedienza ad una previsione di un indovino. Il risultato poi di ricevere del bene non è neppure una previsione degli uomini, perché Dio lo aveva da sempre detto. Per questo, l'oroscopo, quello che ci azzecca a meno, non è altro che un furto preso dai tesori delle promesse di Dio. Un'altra previsione dell'oroscopo sentita per televisione era: gli imprevisti si succederanno uno dietro all'altro, mettendovi momentaneamente in difficoltà. Questa è una trovata degli indovini, rivolta agli ingenui che vogliono diventare stupidi. Chi non sa che la vita è composta di difficoltà? Chi non sa che gli imprevisti sono più numerosi delle gocce della pioggia? Mentre l'oroscopo si limita a dire solo come andranno le cose nella vita, cose che tutti sappiamo, la parola di Dio aggiunge dell'altro. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene, e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ecclesiaste 7.1-3.14. Dio invita l'uomo a considerare gli eventi della vita, perché questi sono l'opera di Dio. Da notare che, quando diciamo che le situazioni vanno storte, non facciamo altro che usare una espressione biblica. E da notare pure che queste situazioni storte, o curve, come le definisce la Bibbia, sono state prodotte da Dio. Perciò non è tanto l'oroscopo a prevedere questo, quasi emettesse una previsione particolare, ma tutto è nella norma. Ciò che non dice l'oroscopo meno e che non può dire meno è di riflettere che dipendiamo sempre dalle mani di Dio. Mentre l'oroscopo invita l'uomo a porre fede negli uomini, la parola di Dio ordina di porre fede in Cristo, quale padrone della vita. Un oroscopo che rende vano ogni presagio del futuro fatto dagli uomini è il seguente: la fretta oggi è cattiva consigliera. Cercate di rimanere calmi. Ci sono voluti migliaia di anni per comprendere che la fretta non è buona e una cattiva consigliera. Forse la fretta è inopportuna solo in un preciso giorno. E a chi appartiene ad un segno dello zodiaco, o lo è sempre? Come può un oroscopo servire a tutte le persone che appartengono allo stesso segno zodiacale? Un bambino di pochi anni può comprendere cosa sia la fretta e essere consigliato malamente. Una persona anziana che vive in un ospizio dove non ha le ansietà e le preoccupazioni della vita, che ne sa della fretta? Anche la parola di Dio si riferisce alla fretta, e vale la pena prendere in esame qualche sua predizione del futuro. L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito. Proverbi 28.20. Non vi è verità più attuale che questa. Se vi è una fretta oggi, è proprio quella di arricchirsi, di accumulare dei beni su beni quasi, che questi diano la sicurezza del futuro. Eppure, persone che avevano grandi beni si sono trovati improvvisamente trovati nella necessità, o hanno sperimentato che di fronte a certe calamità, quali un tumore o la morte, la ricchezza era impotente ad aiutare. La loro fretta li ha puniti. La parola di Dio è molto realista e considera la vita quale essa è, cioè un tempo che passa in fretta. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti a 80. Ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via. Salmo 90.10. Perché ascoltare un oroscopo? Perché valorizzare delle predizioni di uomini, quando questi sono mortali come noi, incapaci di dirci cose vere? Com'è possibile, secondo il consiglio dell'indovino, rimanere calmi in questa vita che passa in fretta? La risposta di Dio non si fa attendere. Perciò così dice il Signore, l'Eterno: ecco, io pongo come fondamento in Sion una pietra provata, una testata d'angolo preziosa, un fondamento sicuro. Chi crede in essa non avrà alcuna fretta. Isaia 28.16. Per chi è a digiuno della parola di Dio, la pietra angolare che può togliere la fretta è Gesù Cristo, perché le circostanze della vita sono nelle sue mani. Se Cristo Gesù è il datore di ogni bene e di ogni circostanza negativa della vita, allora il cuore del credente riposa fiducioso, poiché comunque vadano le cose, egli sa di essere amato da Dio. E sapere di essere amati vale molto di più di ogni oroscopo fasullo. Un oroscopo diceva: siate ottimisti, tutto progredirà molto bene. Invitare all'ottimismo non è mai sbagliato, perché tutti siamo inclini ad essere pessimisti e vedere le cose negative. È sufficiente ascoltare e vedere il telegiornale per renderci conto che le notizie più divulgate e ascoltate sono quelle negative. Perciò non ci è bisogno che qualche astrologo ci dica di essere ottimisti, e non ci è bisogno di dirlo solo a qualcuno che appartiene a qualche segno zodiacale. L'errore dell'oroscopo è proprio quello di dare dei buoni consigli o buone predizioni solo ad alcuni e non ad altri. Tutti dobbiamo essere ottimisti in tutte le situazioni, non è vero? E dato che l'invito all'ottimismo non è nuovo, anche la parola di Dio da millenni invita le persone ad essere positive. L'Apostolo Paolo ha vissuto una vita piena di ogni sorta di difficoltà e di dolori, e per capirne la portata dobbiamo leggere ciò che ha scritto in una sua lettera. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso 1 giorno e 1 notte sul abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. 2 Corinzi 11.2-4.27. Poche persone hanno avuto simili esperienze, eppure con una certa dose di trionfo, egli ha pure scritto: or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Romani 8.28. Per Paolo, le 195 sferzate ricevute sulla schiena, l'essere stato lapidato finché non fosse creduto morto, e tutte le altre sofferenze sono state non solo situazioni positive, ma addirittura le ha ritenute esperienze utili per il suo bene. Per quanto un oroscopo incoraggia ad essere positivo, nessuno arriverebbe ad una simile conclusione. Come del resto, non ci sarebbe arrivato Paolo se non fosse stato animato dall'amore per Cristo. È la fede e l'amore per Cristo che rendono il nostro futuro ottimista. Ancora una volta, l'oroscopo ha fallito il suo obiettivo. Cercate di trasformare le critiche in positivo, diceva un oroscopo. Un buon consiglio, certamente, ma questa morale da dove procede? viene forse dagli astrologi, oppure è la morale cristiana da sempre, predicata da chi ha posto fede in Cristo. Cosa presenta di nuovo l'oroscopo degli uomini che non sia già stato dichiarato dalle predizioni divine riguardanti il futuro? Perché la gente ascolta volentieri l'oroscopo e a volte ubbidisce all'etica da questo consigliata quando la stessa etica viene proposta da Cristo Gesù? C. È che ha dei dubbi sulla veridicità dell'oroscopo, ma non si sa mai. C. È chi lo legge lo stesso anche se non ci crede fino in fondo. C. È chi legge l'oroscopo per passatempo. E questo potrebbe anche essere compreso, ma perché nello stesso modo non leggere la parola di Dio? Anche se si hanno dei dubbi sulla sua veridicità. Come mai la Bibbia non viene letta? Solo perché non si capiscono certe cose, mentre l'oroscopo viene seguito anche se non tutto è chiaro? Se un uomo invita a trasformare le critiche in positivo, e questo invito viene accolto, perché allora non vengono accolte le parole di Gesù che invita a compiere la volontà di Dio che è ben superiore a qualsiasi invito morale? In merito alla necessità di trasformare il negativo in positivo, la parola di Dio dice: «E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio». Romani 12.2. Essere trasformati mediante il rinnovamento della mente significa che, una volta conosciuta la volontà di Dio, si adeguerà il proprio cammino ad essa. Come mai allora coloro che si dichiarano cristiani o credenti in Cristo continuano a consultare l'oroscopo o andare dai chiromanti, quando Dio proibisce categoricamente queste pratiche, anziché preoccuparsi di trasformare le critiche in positivo, cosa del resto cara anche ai moralisti atei, perché non lasciare che la nostra vita venga trasformata dalla parola di Dio? Perché non rifiutare di pregare e adorare immagini scolpite dagli uomini per adorare solo Dio mediante Gesù Cristo? Se l'oroscopo venisse da Dio, condurrebbe le persone a servire Cristo, ma poiché gli uomini che seguono l'oroscopo non hanno la pace di Dio e il perdono dei loro peccati, a cosa serve l'oroscopo se non quello di allontanare le persone dalla verità? L'oroscopo è un altro strumento del diavolo per non rivolgersi a Cristo. Chi lo ha capito? Chi ha il coraggio di rifiutare l'oroscopo e rifugiarsi nelle promesse di Dio? Siete in crisi, riflettete ancora, diceva un altro oroscopo. Che strano consiglio! Che strana predizione! Quando si è in crisi, occorre riflettere, certo, ma necessitano delle risposte. Può forse l'oroscopo dare delle risposte alle nostre angustie e alle nostre crisi? Dire a qualcuno che si trova in grandi difficoltà, fatti coraggio, è certamente una buona cosa, ma gli effetti pratici cosa abbiamo risolto? Nulla. Invece, la parola di Dio nei momenti difficili della vita ha sempre qualcosa da proporre. Un brano della scrittura che mi fortifica ogni volta che le leggo è il seguente: «Chi si leverà per me contro i malvagi? Chi si metterà dalla mia parte contro gli operatori di iniquità? Se l'Eterno non fosse venuto in mio aiuto, sarei presto finito nel luogo del silenzio. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua benignità, o Eterno, mi ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, le tue consolazioni mi rincuoravano». Salmo 94.1-6-19. In questa testimonianza del salmista vi è una risposta che l'oroscopo non sa e non può dare. Il salmista si trovava in crisi perché alcuni agivano male nei suoi confronti e si chiede chi poteva aiutarlo. Forse l'oroscopo, forse gli uomini. Il salmista era uno che aveva posto fede in Cristo e aveva visto la liberazione della sua situazione. Quando si era trovato al punto da non sapere più cosa fare, il salmista ha ricordato la bontà di Dio e le sue consolazioni, e queste gli hanno dato nuove forze. Siamo in crisi? Riflettere va bene. Ma dopo cosa fare? Occorrono parole di consolazione, di incoraggiamento, e chi meglio della parola di Dio può fare questo? Perché ascoltare l'oroscopo quando si ha alla portata di mano la possibilità di ricevere una parola vera? Com'è possibile essere consolati da Cristo se non si legge la parola di Dio? Se gli uomini sono in crisi, Se non trovano ciò che cercano, non è perché non leggono abbastanza l'oroscopo, ma proprio perché lo leggono troppo dando retta a parole seduttrici, senza senso, e non leggono affatto la parola di Dio. La parola di Dio e l'oroscopo sono in antitesi. Perciò chi legge la parola di Dio non legge l'oroscopo, chi legge l'oroscopo non legge la parola di Dio. Strano, vero? Come mai? Perché la luce, che è la parola di Dio, non va d'accordo con le tenebre, che è l'oroscopo. Sfido chiunque a riuscire a leggere contemporaneamente l'oroscopo e la parola di Dio. Se ci riesce, la parola di Dio non è più vera. Un oroscopo diceva: la vostra semplicità oggi potrebbe crearvi un bel pasticcio. E questo sarebbe un oroscopo da ascoltare come qualcosa di particolare per alcune persone particolari. Dove sta una predizione che non l'abbia già fatta Dio? Quando Gesù disse ai discepoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Matteo 10.16 riconosceva che prima di tutto coloro che pongono fede in Dio devono essere semplici. Semplici, non sempliciotti, cioè ingenui. Eppure, anche se essere semplici è spesso un pericolo o crea dei bei pasticci, cinca è la promessa che l'Eterno protegge i semplici. Salmo 116. Come l'Eterno protegge i semplici? Li protegge non permettendo circostanze negative, ma soprattutto perché Dio ha messo per scritto ciò che si deve fare. In effetti, il libro dei Proverbi, cioè un libro pieno di perle, di saggezza, inizia così. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, per conoscere sapienza e ammaestramento, per intendere i detti di senno, per ricevere ammaestramento circa l'agire saggiamente, la giustizia, il giudizio e la dirittura, per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione al giovane. Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo con intendimento ne otterrà saggi consigli, per comprendere una sentenza o un enigma, le parole dei savi e i loro detti oscuri. Proverbi 1.16. Dunque, Dio ha dato la sua parola perché chi è semplice acquisti accortezza, cioè quella prudenza necessaria per vivere tra gli uomini. Perciò il semplice non ha bisogno di un oroscopo per sapere che la sua caratteristica potrebbe creargli dei pasticci, ma ha bisogno di sapere come saltarci fuori. Se io dico ad uno spericolato in moto che molto probabilmente gli capiterà un incidente, serve a poco, mentre sarà molto più vantaggioso dirgli come non essere spericolato. Predirmi un futuro negativo è controproducente se chi me lo annuncia non mi rivela pure il modo per evitare i problemi. L'oroscopo è appunto inefficace perché non insegna come evitare i problemi, e se lo insegna non dice nulla di nuovo che non sia già stato detto da Cristo Gesù. Il libro dei Proverbi è stato scritto non solo per i semplici, ma per dare riflessione e conoscenza al giovane, al savio, all'uomo con intendimento. L'oroscopo non può dare questo aiuto. E allora perché non leggere la parola di Dio anziché l'oroscopo? Rispetto all'oroscopo, cosa trasmette in meno la parola di Dio? Un altro oroscopo diceva: cercate di rispettare le idee degli altri anche se non sono uguali alle vostre. Com'è possibile dare tanto valore all'oroscopo? Com'è possibile credere che l'oroscopo abbia la chiave della felicità? O che dica solo la verità quando propone certe idee o incoraggia ad avere certi atteggiamenti? Se cercare di rispettare le idee degli altri significa considerare ciò che uno dice, il cristianesimo è il primo a proporle da secoli. Ma se significa meno come si pensa comunemente, meno dargli ragione, allora tutto è da discutere. Devo dire che io sono il primo a non rispettare le idee degli altri. Rispetto le persone, ma non sono chiamato a rispettare le loro idee. Io non posso rispettare chi mi parla di violenza, chi pensa sia giusto rubare o uccidere, perché non condivido queste opinioni. Mentre invece posso rispettare la persona, cioè non le manco di rispetto. Mi sento di mancare di rispetto verso un'idea sbagliata, perché non tutte le idee sono giuste, ma non posso mancare di riguardo verso una persona perché è stata fatta ad immagine di Dio. Questo l'oroscopo non lo insegna. L'oroscopo non indirizza le persone a porre fede in Cristo, non insegna il bellissimo messaggio del Vangelo, non istruisce le persone in merito all'insegnamento di Cristo, perciò le idee che propone non sono da rispettare, cioè non sono da ritenere né in stima né in considerazione. Ancora, un oroscopo diceva: non abbiate fretta di concludere, considerate ogni situazione da ogni punto di vista. Parole sagge, ma è farina di un altro sacco. Gli indovini che scrivono l'oroscopo dovrebbero ammettere molto umilmente che qualsiasi cosa buona dicano non è perché loro hanno una marcia in più rispetto ad altri, ma solo perché attingono dalla fonte della verità che è, tra l'altro, il Vangelo. Le persone che predicono il futuro devono ammettere che non esiste altra verità o altra morale se non quella già stabilita da Dio, e che fare sfoggio di saggezza e di conoscenza del futuro, come se questi provenissero da una intrinseca capacità, è un grave furto all'onore che si deve attribuire a Dio. Ma gli indovini, i maghi, i chiromanti, gli astrologi non possono invitare le persone a porre fede in Cristo, perché perderebbero la fonte del loro guadagno, e questo rende la loro opera illecita non solo dal punto di vista finanziario, ma soprattutto dal lato morale. L'oroscopo è un grave furto tratto dai tesori di Cristo. In definitiva, le conclusioni delle nostre riflessioni mettono in evidenza l'illegittimità dell'oroscopo e di tutti quelli che predicono il futuro, e questo per tre ragioni. Prima di tutto è una grossa menzogna che l'uomo possa conoscere il futuro. Non dovremmo mai dimenticare che la conoscenza del futuro è una capacità che l'uomo non possiede, perché esso è possibile solo a chi non è mortale e non è condizionato dal fattore tempo, e dato che le capacità extraterrestri appartengono solo a Dio o a Satana, è evidente che dobbiamo trovare in loro la soluzione. Una cosa è certa: il futuro lo conosce solo Dio. Tramite il profeta Isaia l'Eterno dice: presentate la vostra causa, dice l'Eterno. Esponete le vostre ragioni, dice il re di Giacobbe. Le espongano e ci annuncino ciò che accadrà. Dichiarino quali erano le cose passate, perché le possiamo considerare e conoscerne il compimento. Oppure annunciateci ciò che avverrà. Annunciate ciò che avverrà nel futuro. E così sapremo che siete dei. Sì, fate del bene o del male, affinché rimaniamo sbigottiti nel vederlo insieme. Isaia 41.21-23. La sfida di Dio è sempre valida. Chi annuncia il futuro è un Dio, e dato che nessun uomo è un Dio, nessuno può predire il futuro. Al massimo, gli uomini possono predire le conseguenze di un certo comportamento, come io posso predire il futuro di uno che beve del veleno e gli rimarrà avvelenato, oppure di uno che si getta giù dal decimo piano. Se non muore, si farà comunque molto male. In secondo luogo, l'oroscopo non offre nulla di moralmente utile e buono che non sia già stato scritto nella parola di Dio. La calma, la fiducia, la felicità, il benessere sono i temi principali che Cristo ha affrontato e per il raggiungimento dei quali egli ha dato la soluzione. Inoltre, l'oroscopo compie un'opera distruttrice ed è quella di sviare il cuore dell'uomo da Cristo per indirizzarlo ai maghi e agli astrologhi. Infine, chi vuole conoscere oggi con certezza matematica il futuro imminente e quello lontano, è sufficiente che ascolti ciò che Gesù ha detto: chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Giovanni 3.36. Tutti gli uomini, sia religiosi sia atei, sono sotto l'ira di Dio per il fatto di essere dei peccatori, ma chi crede che Cristo sia morto in croce affinché tutti i suoi peccati siano per sempre perdonati, riceve la vita eterna. Chi ha perdonato i peccati e amato da Dio per l'eternità, riceve una pace e una gioia che non può ricevere da e in questo mondo. Inoltre ha la possibilità di trasmettere ad altri l'incommensurabile dono che ha ricevuto. Questo non può farlo nessun oroscopo. La parola di Dio è il tuo oroscopo. Sei disposto a lasciarti condizionare dal vero oroscopo? Maggio 2006, Ellero.